Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, capisco che nella vita ci siano cose ben più importanti di una partita di calcio, ma vorrei esprimere il mio pensiero riguardo la pessima figura che abbiamo fatto in Sudafrica. Lasciando da parte i vari processi tecnici dei quali sono pieni i giornali, vorrei soffermarmi su di un aspetto che è stato poco considerato. Il nostro ex CT Lippi si disse convinto di non poter vincere i mondiali per una serie di ragioni. Quando si partecipa a un mondiale con l'idea di fare i turisti, appare chiaro perché siamo usciti al primo turno e ultimi in classifica dietro le cenerentole del calcio mondiale. Un CT che dichiara «non pensavo di rivincere i mondiali», non avrebbe nemmeno meritato la considerazione della dirigenza FIGC. Con questa mentalità non si va da nessuna parte, anche nella vita di tutti i giorni. Senza stimoli e sacrifici nulla si può ottenere, se non risultati mediocri. Lo sport, ancora una volta, ce lo insegna. Giorgio. Caro direttore, ciò che è accaduto alla nostra nazionale è lo specchio del nostro paese. Abbiamo vinto un campionato del mondo 4 anni fa, un miracolo nel paese dei miracoli. Ora i nodi sono venuti al pettine e lo stile dirigenziale unito all'età avanzata della popolazione calcistica presente, specchio dell'anzianità del paese, hanno provocato il disastro della spedizione azzurra. 2 punti racimolati e nulla più. Ci affidiamo ai soliti, vogliamo sentirci sicuri. Ci affidiamo a condottieri dispotici, critichiamo. Vogliamo essere i migliori, illudendoci di esserlo stati nella storia, ma non sappiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo, guardarci dentro con spirito critico e voglia di cambiamento. Non crediamo nei giovani, non vogliamo evolvere. Paradossalmente ci riteniamo furbi, ma non lo siamo. Siamo solo in lento, inesorabile declino. Lenti, come il gioco della nostra nazionale. Alessandro. Caro direttore, l'uscita dell'Italia campione del mondo, scornata, bastonata e affranta dal girone più facile del mondiale, è un'immagine molto calzante del nostro paese. Parole, parole, parole, soltanto parole, è quello che arriva dalla tolda di comando. Di riforme vere, nemmeno l'ombra. Adesso faremo le riforme, tuonarono i generali della politica 3 mesi fa, dopo le elezioni regionali, come se qualcuno lo avesse impedito negli 8 anni di governo precedenti. L'unica riforma seria di questi 12 anni è stata quella del lavoro e a posteriori posso dire che non è una gran riforma. I giovani hanno solo 2 possibilità, fare i precari a vita in un paese sempre più zoppicante o emigrare dall'Italia. È frequente infatti che le persone scolarizzate lascino il paese andando a fare i ricercatori o gli specialisti all'estero. Esportiamo ricercatori e importiamo manovalanza di chi nel proprio paese sta peggio di noi. Che affare. Ancor meno appetibile è per un giovane l'idea di mettersi in gioco con un lavoro autonomo. Eppure avrebbero dovuto esserci le liberalizzazioni. Lei, direttore, ne ha vista almeno una di liberalizzazione fatta da questo governo? È possibile che ci sia tanta miopia da non vedere che questo paese, senza un cambio di marcia, è destinato a diventare la geriatria d'Europa? Andrea. Gentile Andrea, il paragone tra la triste sorte della nazionale italiana di calcio e l'immagine complessiva del paese è stata fatta spesso negli ultimi giorni. Certo, qualche paragone può essere giustificato, ma per fortuna la vita quotidiana, così come l'economia globale, non sono un girone di eliminazione in cui il futuro si decide in poche ore anche sulla base di elementi imponderabili. E quindi, se è vero che in Italia ci sono tanti elementi problematici, è altrettanto vero che ci sono altrettanti e ancora più fattori positivi che continuano a consentire al nostro paese di essere una grande potenza industriale, una grande fucina di iniziative imprenditoriali e un paese in cui, non dimentichiamolo, ci sono alti livelli di istruzione, di assistenza sanitaria, di servizi sociali. Ci sono eccezioni, certo, casi di malasanità, come vengono chiamati, così come ci sono insegnanti che pensano solo ad arrivare alla fine del mese e che sono comunque garantiti da leggi, regolamenti e sindacati. Ma tanti problemi non fanno comunque diventare l'Italia un paese di serie B. Anzi, devono spronare a fare di più e meglio. C'è un benessere diffuso, ma ci sono anche tante disuguaglianze sociali. C'è chi paga le tasse fino all'ultimo euro, ma anche tanta evasione fiscale. Per fare un paragone con il calcio, forse per l'Italia ci vorrebbero degli arbitri più efficienti e al di sopra delle parti, magari con il potere di alzare un cartellino rosso di fronte a casi come quello dell'ultima nomina ministeriale, quella per intenderci del ministro al federalismo, una nomina di cui nessuno, nemmeno i federalisti, sentivano l'esigenza. Caro direttore, la pressione fiscale in Italia è aumentata nel solo 2009 dello 0,4% e oggi si attesta al 43,2%, portando l'Italia dal settimo al quinto posto nell'infelice classifica dei paesi con le peggiori statistiche nei conti pubblici e della pressione fiscale. Il dato non è confortante, soprattutto se si guarda a questa pressione come a una delle principali concause, insieme agli alti costi del lavoro, che portano le imprese italiane a delocalizzare i loro siti produttivi all'estero. Peggio dell'Italia in questa classifica fanno paesi come Austria, Belgio, Svezia e Danimarca. La Francia si colloca alla pari del dato italiano. Occorre sottolineare però che il dato statistico non tiene conto della quantità e qualità dei servizi offerti al cittadino contribuente a fronte del prelievo fiscale e del costo contributivo. Se questo dato fosse rilevato e confrontato, l'Italia sarebbe certamente regina assoluta di questa graduatoria che misura l'infelicità delle comunità sociali e produttive rispetto allo Stato che le governa. Non sono infatti paragonabili i servizi e aiuti offerti a famiglie e aziende dei paesi sopracitati con quelli di cui godono i cittadini italiani. Un esempio vale per tutti. Benché la Francia si presenti, secondo il dato statistico, alla pari con l'Italia, il corrispettivo welfare che assiste i cittadini francesi è enormemente più soddisfacente di quello italiano. Per non parlare della qualità sanitaria francese e dei trasporti, su rotaia ad alta velocità, che si colloca fra le primissime posizioni dei vertici mondiali. Inoltre, il premier italiano si è pronunciato a sfavore di un aumento della pressione fiscale sulle rendite finanziarie, varata e caldamente consigliata da Unione Europea e Germania. La situazione italiana presenta un quadro poco rassicurante nel suo complesso, cui si aggiungono, come al solito, scelte politiche e di governo che non intendono andare nella direzione del bene comune, pur di non perdere il consenso. Nelle politiche del governo italiano manca il coraggio di interpretare scelte anche impopolari, che porterebbero certamente un miglioramento della situazione complessiva. Tirando le somme, alla condizione complessiva italiana va aggiunto il costo di una politica timida, costosa, sprecona e piuttosto vile, che non interpreta volentieri il ruolo riformatore imposto dai tempi moderni. Alla sola eccezione del movimento politico che del federalismo e del riformismo ha saputo meglio incarnarne scelte e indirizzi, ovvero la Lega Nord, risponde l'immobilismo. Intanto la Lega Nord rastrella consensi crescenti, segno che coraggio e onestà pagano ancora in politica, nonostante questo paese sia sempre immobilizzato dal terrore di sbagliare scelte e indirizzi politici. Ma solo chi non fa nulla non sbaglia e non rischia critiche. E questo appare invece sempre più il momento del fare, del cambiare, del riformare. Un momento necessario per un paese che deve ritrovare la fiducia in se stesso e nelle sue principali qualità, non nel segno della tacitazione delle critiche o dell'imbavagliamento di magistratura e informazione, quanto nel senso di un cristallino impegno per il bene comune, per il buon governo del paese. Gustavo. Radio 24. Rappresento la quarta generazione di una famiglia di imprenditori piemontesi che per 127 anni ha legato la propria vita all'azienda di famiglia, una delle tantissime PMI italiane nelle quali i nostri predecessori e noi stessi abbiamo riversato impegno, tempo, passione, fatica e denaro, senza mai ricevere una lira di contributi pubblici. Recentemente, solo per garantire il futuro dell'azienda, la continuità del marchio, oltre che la serenità dei collaboratori, la nostra famiglia, e io in particolare, abbiamo deciso di fare un passo indietro, accettando che la nostra società finisse nella bocca di un concorrente, perdendo così, oltre al lavoro, anche l'impresa. Tra i responsabili di questo triste epilogo non posso non annoverare, oltre naturalmente a noi stessi, anche il sindacato e numerosi lavoratori dell'azienda, che dall'autunno caldo di fine anni 60, per anni e anni, non hanno capito la situazione, non hanno saputo interpretare i vari momenti di vita dell'azienda, non sono riusciti a non vedere nell'imprenditore il padrone, considerando l'azienda unicamente una vacca da mungere, spesso senza fornire in cambio la professionalità richiesta. Quante volte in azienda abbiamo visto il sindacato minimizzare, accettare o, peggio, difendere atteggiamenti inqualificabili di alcuni lavoratori riguardo all'assenteismo, alla mancata produttività sul posto di lavoro, all'assenza di collaborazione, se non addirittura ad un vero e proprio boicottaggio. La nostra piccola ditta non era certo paragonabile alla Fiat di Pomigliano. Invece, quante analogie mi sembra di rilevare nell'atteggiamento così poco lungimirante e dannoso di una parte del sindacato e di molti lavoratori. Speriamo solo che non sia troppo tardi per il nostro paese. Per me e per la mia famiglia, purtroppo, ormai lo è. Giulio. Erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.